Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Per fare certe cose ci vuole orecchio, bisogna avere orecchio. Negli ultimi giorni l'orecchio è stato al centro di fatti di cronaca degni di film dell'orrore. In Puglia un poliziotto intervenuto per sedare una lite tra due automobilisti ci rimette l'orecchio che gli viene strappato a morsi da uno dei due litiganti. E dalle orecchiette pugliesi andiamo in Inghilterra, dove una ragazza di 27 anni è tornata da una vacanza in Perù con un orecchio infestato da larve carnivore che hanno scavato una galleria, un cunicolo di 12 mm, rischiava la paralisi facciale. Insomma, la morale è attenzione a quello che vi ronza intorno, specie se è piccolo e amante dei buchi. Buongiorno al dottor Sandro Burdo, medico audiologo all'ospedale Buzzi di Milano. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Notizia aerostruttatore, notizia terribile questa della mosca dell'orecchio carnivora. In realtà è un bel esempio per capire come funziona il condotto uditivo esterno e la funzione del cerume, perché molti si chiedono cosa serve il cerume che ci dà solo fastidio e lo dobbiamo togliere. Ecco, funziona come la carta moschicida, per cui gli insetti che una volta entravano ovviamente molto più frequentemente nella preistoria rispetto a oggi, gli insetti che entravano nell'orecchio non potevano raggiungere la parte interna perché erano bloccati dal cerume che funziona come una mosca, come una carta moschicida. La mosca in realtà avrebbe voluto uscire dall'orecchio, non c'è riuscita ed è morta all'interno del condotto uditivo proprio perché è rimasta bloccata dalla collosità del cerume. Quindi questa è una delle funzioni del cerume, quello di non permettere agli insetti di penetrare nel condotto uditivo esterno. Dottor Burdo, le orecchie, ma a pensarci bene anche il naso, sembrano protette, ma in realtà, da quanto ci dice, sono esposte a incontri ravvicinati che possono metterle in difficoltà. Invece sì, hai rovinato la biglia di mio padre. Lui non la vorrà più con tutto il tuo mocciolo sopra. Invece la voglio lo stesso, basta lavarla. Andrà tutto benissimo, il dottore te la tirerà fuori di lì in un attimo. Come mai tu non lo sai fare? Beh, sai com'è, il naso è piccolo, la biglia è grande. Ma vedi, il dottore ha una specie di pinza e te la infila dentro e te la tira fuori. E tu sarai a posto, basta che non ti preoccupi, Che cosa è finito accidentalmente nel vostro naso o nelle vostre orecchie, di quello dei vostri bambini? Chiamateci 800 24 0024 e diteci in diretta com'è andata. Naturalmente potete scrivermi al 349 238 6666, mandarmi una mail a esserebenessere@radio24.it e seguirci su Facebook e su Twitter. Dottor Burdo, lei ne avrà viste un po' di tutti i colori, ma c'è una leggenda metropolitana che racconta che a un uomo si è cresciuta una piantina nel naso. La storia dice che tutto sia partito da un minuscolo seme. Può anche essere però una bella leggenda che può spiegare che ci si può infilare di tutto nel naso. Nella mia esperienza, numerose palline o anche delle pietruzze, dei gioiellini, i bambini se li infilano nell'orecchio per gioco, e toglierli è sempre molto difficoltoso. Quindi soprattutto gli oggetti molto piccoli non devono essere lasciati in mano ai bambini, non solo perché li possono ingoiare, ma anche perché spesso se li infilano o nel naso o nell'orecchio. Dottor Burdo, lei ci vuole dare un'indicazione? Come si fa a liberare il naso, l'orecchio dai bambini che magari si infilano piccoli, no, oggettini, il bottoncino? Che cosa devo fare una mamma per evitare di peggiorare la situazione? Assolutamente non deve tentare di estrarlo lei, perché lo può cacciare più in fondo, questo negli orifici sia del naso che dell'orecchio. Bisogna andare dallo specialista. Lo specialista, con l'uso soprattutto dei microscopi, in alcuni casi purtroppo bisogna anche fare delle anestesie, perché poi toglierlo diventa molto doloroso. Allora, con degli strumenti adeguati e sotto, con l'uso del microscopio soprattutto, si possono estrarre questi corpi estranei che i bambini spesso si infilano. confinano. Quindi il messaggio, dottor Burdo, è: non cercate di toglierlo, di raggiungere, ma portatelo al pronto soccorso. Sì, perché... A meno che non sia molto facile da fare, certo, però lì ci arriviamo. Sì, dottor Burdo, lì ci arriviamo anche noi mamme. Questo me lo metto in dubbio, questo lo metto in dubbio. 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate, a volte a mandare in crisi le nostre orecchie basta poco. Bagno in mare o in piscina, un viaggio in aereo, una serata in discoteca con la musica un po' sparata a tutto volume ed ecco che arriva il conto. L'estate, lo sappiamo, è una stagione un po' a rischio, quindi cerchiamo di non ficcare le nostre orecchie nei guai, impariamo a riconoscere per tempo eventuali segnali di sofferenza che potrebbero trasformarsi in emergenze e quindi mandare in fumo le nostre vacanze. Ma dottor Burdo, prima di partire, mi faccia capire se ci sono delle orecchie più a rischio di altre, perché magari diretti interessati non lo sanno e quindi rischiano di più. Ma soprattutto direi che quando ci si sente le orecchie un po' chiuse, ci può essere un po' di cerume all'interno dell'orecchio, che non dà fastidio al momento in un modo particolarmente evidente. Poi si va al mare, si fa un bagno, il cerume si gonfia come i fagioli a contatto con l'acqua ed ecco che ci roviniamo le vacanze per un tappo di cerume che avremmo potuto togliere prima di partire. Questo è l'evento più frequente dei vacanzieri per quanto riguarda l'orecchio. Il secondo è la tuba chiusa, cioè chi ha un raffreddore non curato, che poi pretende di fare delle immersioni, quindi non riesce a compensare e lì sono dolori, perché scendendo velocemente nell'attività subacquea si sente un dolore fortissimo all'orecchio, perché l'orecchio non riesce a compensare la pressione dell'acqua esterna. Questo vale anche per l'aereo: se abbiamo le orecchie un po' chiuse, dobbiamo liberarle prima di sottoporre l'orecchio degli stress pressori. E gli stress pressori sono l'attività subacquea e quando si sale in montagna, quando si va in aereo, quando si decolla è come salire in montagna e quando si atterra è come scendere rapidamente dalla montagna. Quindi le orecchie si chiudono e se erano già chiuse poi sono dolori, perché fanno proprio male. Allora, se soffrite di otiti, se avete la sensazione di avere l'orecchio chiuso, se quando salite in aereo vi si tappano le orecchie, avvertite dolore, se vi disturba anche un eczema, un prurito fastidiosissimo che si riattiva magari in occasione di bagni e tuffi, e a proposito di tuffi, restate con noi a tra poco per una gradita per noi sorpresa. Alla grande! Alla grande! Come a Roma 2009, dopo 4 anni, e mettiamo una pietra sopra il quarto posto di Londra, il quarto posto dell'Olimpiade. 70,20. Nuota, ma la sua specialità sono i tuffi, di cui insieme a Tania Cagnotti e Regina, in linea con noi abbiamo il piacere di avere Francesca Dallapè. Francesca, ciao! Buongiorno a tutti. Ma che soddisfazione e complimenti per la vostra medaglia d'argento ai mondiali che si stanno svolgendo a Barcellona, veramente ci dai grandi soddisfazioni, ci date. Grazie mille, grazie. Senti Francesca, noi parliamo di orecchio, quindi di tuffi, ci sono delle persone che quando si tuffano avvertono proprio l'orecchio che si tappa, ma tu quanti tuffi fai in un giorno di allenamento? Ma circa... Facciamo 2 allenamenti al giorno, quindi una trentina di tuffi la mattina e una trentina di tuffi il pomeriggio. Francesca, tu ti ricordi il tuo primo tuffo? Sì, mi ricordo che quando sono andata in piscina la prima volta per provare insomma questo sport, ancora non sapevo nuotare, quindi mi sono buttata e ho cercato di uscire in qualche modo dall'acqua, quindi forse mi ricordo più la fatica di uscire dall'acqua che quella di entrarci. Sì. Quanti anni avevi, Francesca? 6 anni. Senti, Francesca, a volte chi ha si tuffa ha proprio la sensazione che le orecchie si tappano, le tue saranno ormai super abituate, ma tu hai un consiglio? Ma beh, sicuramente con un po' di allenamento ci si abitua e quindi la compensazione avviene in modo naturale. E il consiglio è quello di comunque cercare di non andare subito in profondità troppo, insomma, troppo profonde, ma cercare di abituarsi prima in pochi metri, 1-2 metri già, io penso che un orecchio si possa abituare, poi piano piano si può comunque cominciare ad andare un po' più a fondo. Senti, mi arriva un messaggio di un'ascoltatrice, Lucia, sì, che ci scrive: come posso insegnare al mio figlio, che ormai ha 11 anni, a tuffarsi senza chiudersi il naso con le dita? Ma cercare di dirgli che appena sta per entrare in acqua, comunque di non tenersi il naso, e appena sta per entrare in acqua di fare un soffio come per soffiarsi il naso, buttare fuori praticamente l'aria, così buttando fuori l'aria l'acqua non può entrare. Sarà contenta il bambino di Lucia, che avrà proprio un suggerimento da una campionessa, medaglia d'argento di tuffi. A proposito, prima di salutarci, so che sei in piscina e stai seguendo, sì, mi aiuti a sottolineare che il tuffarsi è comunque una cosa seria, mi aiuti a dare qualche consiglio per evitare incidenti? Ma sicuramente bisogna cercare di controllare bene quello che abbiamo sotto, buttarsi dagli scogli penso che sia una cosa che fanno un po' tutti i bagnanti quando vanno al mare, però prima bisogna accertarsi delle condizioni che ci sono sul fondo, se non ci sono scogli, se la profondità almeno è di 4 metri, 4-5 metri, perché insomma diventa pericoloso se la profondità non è di quel tipo. E comunque di stare attenti, perché è comunque uno sport dove va a toccare insomma la schiena e articolazioni che possono poi portare delle controindicazioni. Grazie Francesca per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, un abbraccio e ancora complimenti. Chi è? Orecchio. Adesso c'è un po' di cerume dentro l'orecchio, non c'è sede. Bene, vediamo un po'. Ammazzo, lo chiami cerume, questo è fango. Tu sei sordo. Ma dottor, ma orecchio mica è questo. È quest'altro. Dici? Vediamo. Dai, è peggio. Lavaggio. Lavaggio. Col sapone. Eddie mi scrive: la mia sorellina si era messa sul naso un fagiolo nero, l'ho fatta respirare un po' di pepe, è arrivato uno starnuto e il fagiolino è uscito. Incontri ravvicinati, che cosa è capitato di avere a contatto con il vostro naso, con le vostre orecchie? 800 24 00 24, il dottor Burdo è ancora in linea con noi. Certamente. Dottor Burdo, abbiamo in linea Carlo Alberto dalla provincia di Mantova. Buongiorno Carlo Alberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Carlo Alberto, siamo qua, tutto orecchie. Sì, senta, dunque io ho un problema un po' particolare. È da anni che soffro di occlusione della pressione dell'orecchio. Cioè praticamente come quando fossi in montagna. Ecco, io ho sempre un po' le orecchie chiuse. Faccio il movimento della bocca o soffio, mi si aprono e poi dopo 10, 15, 20 secondi mi si richiudono. Sono stato dall'ottorino, mi hanno detto che forse è il catarro, ma non ho risolto niente. Le orecchie non hanno cerume, controllate, sono però si sono tappano. Dottor Burdo. Ecco, volevo sapere se c'era qualche nuova indagine o un nuovo rimedio. Per rimediare. Grazie Carlo Alberto. Dottor Burdo. Sì, allora, il sintomo è tipico di una disfunzione tubarica. La tuba di Eustachio che va dal naso all'orecchio è quella che riequilibria la pressione della membrana timpanica rispetto alla pressione atmosferica. In altre parole, la pressione atmosferica che spinge la membrana timpanica verso l'interno viene equilibrata all'interno dell'orecchio dall'apertura della tuba di Eustachio che noi apriamo tutte le volte che deglutiamo. Ci sono dei pazienti che con questa manovra non riescono ad aprire la tuba e quindi c'è sempre la pressione esterna che spinge la membrana timpanica verso l'interno e provoca la sensazione di chiusura. Il rimedio è quello di aprire la tuba. La tuba come si apre? Con dei farmaci, una serie di cose, oppure con dei cateterismi tubarici. Ad esempio il signore che abita vicino a Mantova, mm-hmm, va a fare un bel viaggio a Sirmione, che è lì vicino, si fa fare dei cateterismi tubarici e dovrebbe risolvere il suo problema. I cateterismi sono? Delle insufflazioni di acqua termale nell'orifizio della tuba, che la stappa proprio. Lava e stappa. E la stappa perché è a pressione. Dottor Burdo, l'orecchio che si tappa è invece fisiologico quando saliamo in quota, quando andiamo in aereo, ma prima di andare in alta quota io vorrei restare in acqua, perché in questo periodo è molto frequente quella che viene chiamata otite del nuotatore. Sì, è molto fine chiamarla swimming ear, perché alcuni la chiamano in questo modo, che è proprio la traduzione dell'otite del nuotatore. Attenzione, non confondiamo l'otite media, quella che viene d'inverno, con l'otite esterna. L'otite esterna è un'infezione della cute, del condotto uditivo, ed è frequente d'estate, perché un po' di cerume che rimane dentro il condotto uditivo a contatto con dell'acqua non propriamente pulita, si infetta e quindi fa un male terribile. È un problema che può interessare indifferentemente sia adulti che bambini, ma i bambini sono più soggetti per ragioni anatomiche, le mamme lo sanno bene e si confrontano in rete, e dalla rete in linea con noi abbiamo il piacere di avere Sara Pozzoli, direttrice del portale Nostro Figlio, in rappresentanza delle mamme. Ciao Sara! Ciao Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Sì, in effetti il mal d'orecchie è davvero un tormento estivo. Abbiamo un sacco di messaggi che ci arrivano sulla fanpage di Facebook, ma anche sul forum del nostro sito, perché purtroppo il mal d'orecchie arriva magari improvvisamente, di notte, di sabato, di domenica, quando si è in vacanza. E quando è il bambino che avverte dolore, magari molto piccolo, le mamme si spaventano. Giustamente. Dottor Burdo, i bambini, l'abbiamo detto, sono più predisposti, ma questo non significa che siano condannati al mal d'orecchio. Qualcosa si può fare, e penso che quello che va bene per i bambini possiamo adottarlo anche noi. Sì, non solo. Qui è importante fare una diagnosi differenziale, cioè distinguere tra l'otite esterna e l'otite media, perché entrambe provocano lo stesso sintomo, cioè un dolore acuto, il bambino piange, appoggia l'orecchio ammalato sul seno della madre, questo è abbastanza tipico. Una manovra abbastanza semplice per capire se si tratta di un'otite esterna, quindi di un'infezione della cute del condotto uditivo, perché il bambino ha fatto il bagno in acque non propriamente pulite, la si può avere l'informazione se si tratta di un'otite esterna premendo sul trago, il trago è quella rilevanza anteriore all'orecchio, e spingendolo verso il condotto uditivo esterno. Se così facendo il bambino urla dal dolore, e si può provare un attimino, vuol dire che è un'otite esterna. Se invece il bambino non ha nessun segno di dolore quando si spinge il trago verso il condotto uditivo, vuol dire che si tratta di un'otite media. Questa è una manovra semplice da fare che le mamme possono eseguire normalmente. Quindi individuiamo bene il punto. Brava. Dopodiché poi in realtà per togliere il dolore si mettono le solite gocce. E questo è sia per l'otite media che per l'otite esterna, ma mentre nell'otite esterna si tratta di un disturbo cutaneo e quindi la terapia è locale, nell'otite media invece spesso si danno giustamente degli antibiotici, e ripeto, si deve sempre liberare la tuba di Eustachio, perché è quella che si chiude e non fa da drenaggio al catarro che si trova all'interno dell'orecchio medio. La parola alle mamme, Sara. Sì, dunque l'altra cosa, a parte questo dell'otite del nuotatore, ci arrivano tanti messaggi proprio in questi giorni di mamme che devono prendere l'aereo con bambini, con neonati o bambini molto piccoli. La paura è quella che appunto al momento del decollo e dell'atterraggio il bambino provi dolore, e non gli si può dire di deglutire o di soffiarsi il naso se neonato. Magari il dottor Burdo potrebbe dare qualche consiglio. Allora, il motivo per cui i bambini soffrono più degli adulti è perché la loro tuba è in posizione orizzontale invece che verticale, è molto più corta e si apre con più difficoltà. Quando noi saliamo in aereo, quindi decolliamo o atterriamo, è come se andassimo in montagna molto rapidamente, se salissimo molto rapidamente o scendessimo molto rapidamente dalla montagna. Ci vuole quindi del tempo perché le aperture della tuba riequilibrino la posizione della membrana timpanica e siccome invece queste variazioni di pressione sono molto rapide, non c'è il tempo perché questo avvenga. Quindi dobbiamo favorire e accelerare le aperture della tuba. La cosa da fare con i bambini piccoli è di attaccarli al seno della mamma o dar loro il biberon in modo da farli deglutire continuamente se sono molto piccoli. Se sono un po' grandicelli gli si danno le solite gomme americane piuttosto che le caramelle e una buona prassi è quella di riscaldare prima del viaggio il naso con dei suffumigli, si mette il pentolone dell'acqua calda in cucina, lo si fa bollire e si scalda il bambino come si faceva una volta quando si aveva il raffreddore. In questo modo la tuba si libera abbastanza e quindi è più facile che si apra durante il viaggio aereo. Sara, ma quante ne sa questo dottor Burdo? Hai sentito? Benissimo, no, grazie per i consigli ottimi che abbiamo dato alle mamme che daremo appunto, grazie a lui. Sara, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, aprendo con due fatti di cronaca delle larve che sono finite nell'orecchio della ragazza inglese tornata dal Perù e di un poliziotto che ci ha rimesso l'orecchio staccato a morsi da un litigante, che cosa è finito accidentalmente nel vostro naso o nelle vostre orecchie? Un invito che rivolgo anche ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, le mamme parlano anche di questo? Purtroppo sì, diciamo perline, fiori, giocattolini piccoli, ecco, un po' di tutte queste cose finiscono purtroppo nel naso dei bambini e quindi appunto anche in questo caso chiedo aiuto perché insomma per intervenire subito penso che sarebbe utile veramente che i pediatri facessero un breve corso, un mini corso alle mamme per sapere come fare. Insomma, ma tante volte, come diceva il dottor Burdo, bisogna proprio intervenire, è un esperto che deve intervenire, ci deve mettere la mano. Intanto andiamo da Cecilia, che ci chiama da Pordenone, Susanna da Siracusa. Cecilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo raccontare un po' la mia esperienza. Io ero in giardino che facevo giardinaggio e mi è entrato in un orecchio un insetto. Sì. Sentivo rumore e fastidio, mi faceva anche male perché mi ronciava continuamente. E mio marito ha tentato di guardare, di tirarlo fuori, non ci siamo riusciti, dovevamo andare in pronto soccorso e io così in maniera istintiva ho pensato all'aspirapolvere. Come? E geniale! E con l'aspirapolvere sono riuscita a tirar fuori l'insetto. A questo punto anche un po' strano, non so se ho fatto bene. Senta, però l'insetto è uscito e tra l'altro secondo me è stata geniale. Dottor Burdo, le sarebbe venuto in mente? Beh, è quello che facciamo noi usiamo un aspiratore che funziona come ma brava Cecilia, io le faccio avere un libro. Cecilia, ci lasci perché è stata troppo brava, grazie per avercelo raccontato. Usiamo l'aspirapolvere. Susanna, attenzione però alle pressioni dell'aspirapolvere, perché ci sono alcuni aspirapolvere, non dico il nome, ma quelli che vendono per case, sì, che sono molto potenti, quindi se lei aspira e appoggia violentemente tira su tutto anche il timpano. No, allora facciamo quello, l'aspirino per il tavolo, no, per le bricioline, brava, che dici Sara? Va bene, certo, bellissimo. Questa mi piace. Essere e benessere. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Come se avete le orecchie a sventole, i capelli corti, mi raccomando, mettete la crema. Dottor Burdo, ci si scotta, eh? Accidenti, soprattutto quelli che hanno i capelli, i rossi di capelli, che hanno la pelle molto delicata. Io ho un ragazzino, un mio piccolo paziente, che arrivava con le orecchie, l'apice dell'orecchio ustionato tutte le volte che andava al mare. Lei si è mai scottato le orecchie, dottor Burgo? Grazie a Dio no. Ma perché porta i capelli lunghi o perché no, previdente? No, perché sono di carnagione scura. Allora, che cosa è finito accidentalmente nel vostro naso, nelle vostre orecchie? 800 24 00 24, mi state scrivendo anche al 349 238 6666. Ma abbiamo Susanna che ci sta aspettando. Susanna? Sì, siamo buongiorno. Da lei, prima di andare in montagna con le nostre orecchie. Tra l'altro chiamo da Siracusa, quindi il sole ce l'ho. Che fortuna. Sì, tra l'altro non sono siracusana, sono qui per amore proprio una doppia fortuna. Allora, Sì, volevo chiedere al dottor Burdo una cosa che mi ha sempre incuriosito, forse è una sciocchezza, però a proposito di elementi alieni, no scherzo, però quando ero piccola, avevo 6 anni, mi è capitato di, con un giocattolino che era un fucilino con dei pallini di gomma, un gommino concavo di qualche millimetro, l'ho inserito nell'orecchio e questo non usciva più. E è poi uscito, anche secondo le referenze di mia madre, è uscito, ma dopo molte settimane, almeno forse 2 o 3 mesi, e me lo ricordo. È uscito da solo, evidentemente il cerume non aveva fatto il suo lavoro, dottor Burdo. Ma è rimasto lì, tranquillo, e poi dopo un certo punto è uscito, perché? Dottor Burdo. E poi è uscito molto probabilmente perché è cresciuta, nel senso che si è allargato un po' il condotto uditivo, vede. E quindi è riuscito a uscire. Ecco. Vede? È molto probabile, è la palissiano, ma non ci si arriva. Quindi è cresciuta lei il suo orecchio, il condotto e il tappino è uscito. A proposito, alcuni ascoltatori veramente ci sono delle storie, dottor Burdo. Ad esempio, un ascoltatore mi scrive: mia cugina, quando era piccola, è entrato nell'orecchio un seme di carruba e poi è germogliato e le faceva male. Vede che c'è questa cosa del. E invece un altro ascoltatore mi scrive che gli è entrato, mentre si riposava su un prato, un ragno nell'orecchio. La guida, che era in montagna, le ha versato dell'acqua e il ragno è uscito nello stupore e ribrezzo generale. Serve mettere a affogare l'acqua? Affogare il ragno? Ha fatto un lavaggio, quello che noi facciamo nell'orecchio, cioè gettando dell'acqua. Ecco, quando si fanno queste manovre è importante scaldare un po' l'acqua, se si decide di farlo, perché altrimenti, se l'acqua è fredda e gelida, può provocare una vertigine molto importante e si prende paura per una cosa banale, quindi bisogna un po' scaldarla, però può essere. Però vede che ci si attrezza, quindi abbiamo detto l'aspirapolvere, non quello da pavimenti, ma quello più delicato, e poi il lavaggio. Cerchiamo. Alessandro, buongiorno da Brescia, poi Antonio da Asti. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, buongiorno a tutti. Volevo semplicemente appunto riportare brevemente la mia storia. I miei problemi sono cominciati all'asilo, quando una mia compagna mi infilò un chicco di riso che utilizzavamo per fare degli ornamenti, dei lavoretti, esatto, e per poterlo estrarre mi portarono ovviamente al pronto soccorso, dove io non ero particolarmente collaborativo, poi probabilmente non avevo incontrato una persona particolarmente esperta. Il fatto sta che da questa cosa ne uscì con una lesione profonda al timpano. Da lì è cominciato tutto un calvario che è durato per anni, otiti, sfotiti e via dicendo, fino a che non ho dovuto proprio subire un intervento per la ricostruzione del timpano, esatto. È tutto nato da un chicco di riso. Da un chicco di riso che. E da una compagna pestifera, diciamo. Era una compagna particolarmente pestifera, sì, con la quale non sono più in ottimi rapporti da allora. Dottor Burdo, grazie Alessandro per averci chiamato. Dottor Burdo, se si lesiona il timpano, come facciamo ad accorgercene? E poi è sempre necessario un intervento per ripararlo? Allora, la cosa ci si accorge perché si sente meno, questo è il sintomo principale. Il quanto sentir meno dipende dalla posizione della perforazione. Se è una perforazione anteriore, il danno uditivo è minimo. Se invece è centrale al timpano, si può arrivare fino a 60 decibel, quindi è una sordità abbastanza importante. Non sempre è necessario intervenire nuovamente, ad esempio le otorree tubariche dei bambini. Cos'è quel nome lì difficile che mi ha detto, che io non lo so? Nome difficile che peraltro i giovani spesso dimenticano, i giovani colleghi che esistono e consigliano subito l'intervento. Le torre tubariche è il timpano che si apre anteriormente per un fatto naturale e fa uscire delle quantità enormi di catarro che si sono accumulate dentro l'orecchio, ma funziona come una finestra, cioè il timpano si apre, poi quando ha finito di espellere tutto il catarro si richiude, quindi non c'è bisogno di un intervento. Così come le perforazioni non troppo grandi possono essere cruentate significa irritate con uno spicillo, con un ferrettino ai loro margini, in modo da favorire la loro chiusura con dei processi di autoriparazione, per intenderci. Poi ci sono ovviamente le perforazioni, quelle abbastanza grosse, che necessitano di interventi che possono essere o di miringoplastica, cioè si rifà completamente il timpano, o di timpano plastica dove si rifà il timpano, in più si fa una toilette della parte dell'orecchio medio che è infettata. Andiamo ad Asti, c'è Antonio che ci aspetta, 800 24 00 24. Antonio, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno, buongiorno. Ascolta Nicoletta, volevo chiedere questo. Io ho una figlia di 11 anni, Arianna, si sono appena tornato dal mare, sì, che passa delle ore a fare delle immersioni. Al momento non abbiamo a fare immersioni. Delle ore a fare delle immersioni subacquee, a non grossa profondità, comunque con 2 o 3 metri. Sì. Cioè, volevo sapere da voi cortesemente se potevo fare questa attività e comunque a lungo andare pericolosa e quale precauzioni adottare. Grazie Antonio, ti sento dalla voce un po' preoccupato. Dottor Burdo, No. Dopo i 5 metri che di solito si possono avere i problemi. Teniamo presente che il genitore apprensivo pensa all'orecchio della figlia, ma la figlia sciocca non è, quindi se le facesse male non lo farebbe, il che vuol dire che ha un'ottima compensazione tubarica che le permette di fare quel tipo di attività. Direi che non è il caso di preoccuparsi. Quindi può fare immersioni e fino ai 5 metri non c'è problema. Veramente fino ai 5 metri non si ha fastidio, dai 5 metri bisogna essere capaci a compensare. E quindi è una sorta di test? È una sorta di test. Allora, se fa male l'orecchio prima dei 5 metri vuol dire che è una diagnosi di ostruzione tubarica, vuol dire che abbiamo la tuba che non funziona bene. Ecco, questa è un'indicazione, quindi se noi ci tuffiamo, facciamo un'immersione anche quasi, insomma, poco profonda e sentiamo che qualcosa nelle nostre orecchie non va, ecco che ci suoni un campanellino d'allarme. Alessandro da Pisa, buongiorno. No, buongiorno a voi. Buongiorno. Ci dica. Io volevo intervenire e chiedere ai nostri ospiti. Ho un bambino di 2 mesi e mezzo quasi, si chiama Cosimo, e sì, deve andare in vacanza con la sua mamma e prendere l'aeroplano. Sì. E che precauzioni devo prendere per evitare, appunto... Ma in parte il dottor Burdo, Alessandro, lei non ha prestato orecchio a proposito, il dottor Burdo in parte ha già risposto a questa domanda. Dottor Burdo, bambini piccoli in volo... Bambini piccoli, puliamo il naso con l'acqua di mare, con quelle fialette che vendono, va liberato il naso, al decollo e all'atterraggio lo si attacca al seno della mamma oppure alla biberon in modo da farlo deglutire continuamente. Queste sono le due cosa da fare. Dottor Burdo, vacanza, è tempo di escursioni, abbiamo parlato di montagna, viaggi in aereo, anche con la domanda di Alessandro, bambini molto piccoli, siamo andati al mare, in estate è anche un'occasione per andare a ballare, quindi discoteca, musica ad alto volume, la musica lo sappiamo che è una compagna di vita, ma può colpire l'orecchio in modo subdolo, in particolare la delicatezza coclea, ed questo è sicuramente insidioso perché noi non ci rendiamo conto dei danni che il rumore provoca alle nostre orecchie. Essere e benessere. Dottor Burdo, il rumore quanto effettivamente danneggia le nostre orecchie? Ci sono, ogni tanto si leggono dei dati, un adolescente su 4 rischia con la compromissione dell'udito per l'ascolto della musica in cuffia con... Un po' di sensazionalismo in realtà. È chiaro che il rumore danneggia l'udito, però deve avere determinate caratteristiche e chi lo subisce anche lui deve avere determinate caratteristiche, ovvero il rumore deve essere molto intenso, ovviamente, oltre gli 85 decibel, ma questo non vuol dire nulla se dura poco. Deve durare almeno 8 ore continue, quindi se io sento 85 decibel per 5 minuti al mio orecchio non succede nulla. E poi devo essere predisposto a diventare sordo. Quindi se qualcuno ha in famiglia dei sordi è probabile che in presenza di rumori molto intensi possa subire un danno all'udito. Ora, le cuffiette fanno sentire la musica è è un rumore fluttuante, non è un rumore continuo. Ci accorgiamo che è troppo forte se la mamma e il papà la sentono all'esterno, cioè se noi sentiamo la musica che ascolta un ragazzino dall'esterno vuol dire che lui la sente troppo forte. Diciamo al ragazzino che fa una brutta figura perché la musica alta è distorta e quindi lui ascolta la musica in un modo un po' scorretto, quindi non è un buon ascoltatore di musica. Suggeriamogli di abbassare il volume. Dottor Burdo, però ci sono degli ascoltatori, e poi sì, lo sappiamo, ci sono persone che vanno ad esempio in discoteca, vanno ad un concerto e tornano a casa con le orecchie che fiscano, come se l'orecchio avesse fatto un'indigestione di musica ad alto volume. No, più che un'indigestione hanno subito un trauma acustico, Sì. che è un po' diverso dal danno da rumore continuo, cioè Certo. l'operaio che lavora 8 ore al giorno a 85 decibel ha un danno diverso come patogenesi, come causa del danno provocato dalle casse del concerto o della discoteca, perché lì sono rumori violenti, si arriva a 110-115 decibel. E come giustamente ha ricordato lei, il primo segnale d'allarme è l'insorgenza di un'acufene, cioè di un fischio acuto. Il fischio è l'orecchio che ci dice: guarda che ci stai facendo diventare sordo. Per cui appena noi sentiamo un fischio in discoteca dobbiamo allontanarci, perché uno dei rimedi è il silenzio, anzi è il rimedio principe in caso di danno da rumore, ci si allontana per un po', il fischio scompare. Poi non ritorniamo proprio vicino alle casse in discoteca o vicino al concerto, queste sono le due cose da fare, mai mettersi vicino alle casse perché le casse possono sparare dei volumi incredibili e quindi provocare proprio un trauma, non tanto un danno da rumore, ma un trauma acustico. Ma le nostre orecchie devono difendersi anche da un altro nemico altrettanto insidioso. Ah, scusate. La spengo subito. Sì, ma non lì, quello non è un portacenere. Ah no? No? In fondo al corridoio, a destra. Eppure ho avvisato Paolo che ci eravamo sbarazzati di tutti i portacenere da quando avevamo fatto il corso per smettere di fumare. Era un bisogno di gesti simbolici per rafforzare la convinzione. Occupato? Mi scusi, era solo per buttare una sigaretta. Paolo? Sì. Confrontilo? Ma non avevi smesso te? Sì, è che volevo fare una prova, no? Che il fumo faccia male, lo sappiamo bene, ma che danneggi l'udito, anche l'udito, forse non è noto a tutti. La relazione ce la spiega il dottor Roberto Boffi, che è in linea con noi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Fumo e udito, che relazione c'è? Sì, può sembrare un po' Tirata curiosa, per i capelli, tirata invece per le orecchie, per e le orecchie. invece no, anche lì riesce il fumo a danneggiare come? Ma non solo il fumo attivo, ma anche il fumo passivo, perché uno studio recente americano della Florida International University, fatto su 3.700 volontari, fumatori e non fumatori, ha dimostrato che ci sono dei danni con alterazioni da microcircolo sanguigno a livello dell'orecchio anche nei fumatori passivi, nei correnti fumatori passivi. Questo per uno stress ossidativo, per un'alterazione dei vasi e anche un accumulo di sostanze tossiche, il famigerato PM10, il monossido di carbonio che toglie l'ossigeno. Per cui statisticamente è stato visto che le persone esposte al fumo proprio o altrui avevano un calo Quindi dell'udito. praticamente i piccoli vasi dell'orecchio Sì, rimangono quasi soffocati e esatto, un po' come avvelenati dal succede fumo. Ho normalmente capito. al cervello o ai bronchi o al cuore. Dottor Boffi, un'attenzione quindi particolare, vogliamo sottolinearla, devono avere le donne in attesa, perché è provato che il fumo della mamma nuoce anche al suo bambino. Sì, questo è già noto da più tempo, i danni potenziali del fumo in gravidanza in termini di riduzione del peso alla nascita, statisticamente l'aumento della percentuale di parti prematuri e di aborti e poi la correlazione ormai dimostrata con certezza del fumo di uno o entrambi i genitori con la possibilità della tragica morte improvvisa in culla, per cui questo per varie sostanze contenute nel tabacco, compresa la nicotina. Dottor Boffi, ma per le mamme che non riescono a smettere, fanno molta fatica. Noi Tre si quarti, possiamo consigliare la sigaretta elettronica? delle donne fumatrici in gravidanza smettono, però quindi già è grave che un quarto non smetta di fumare, e poi è altrettanto preoccupante il fatto che la maggior parte di loro purtroppo dopo il parto o dopo l'allattamento ricomincia. Riprenda. Per cui diciamo che per quel 25% di fumatrici che non smette in gravidanza, piuttosto che niente si può provare anche la sigaretta elettronica. In questo caso il mio consiglio è di usare per prudenza magari le cartucce senza nicotina. Noi all'Istituto dei Tumori è stato approvato proprio in questi giorni al Comitato Etico un importante studio multicentrico insieme a due università americane in cui studieremo la capacità di inquinamento ambientale delle sigarette elettroniche confrontato con quelle delle sigarette normali, e quindi spero che entro la fine di questo anno, magari già in autunno, potremo dare dei dati importanti sulla potenziale tossicità di queste nuove metodi per almeno per danneggiarsi meno. Attualmente posso solo predicare prudenza e incoraggiare. Stavo comunque pensando che lei dicesse predicare bene e razzolare male, no? No, predicare no, no, prudenza. No, predico bene e razzolo bene e studio non avendo in questo momento delle certezze da poter dare ai fumatori, quindi il principio sacrosanto di precauzione, ecco. Però appena avremo dei dati precisi sulle liberazioni di polveri sottili, di carbonio, di metalli pesanti, di VOC, cioè composti organici volatili liberati nella vita reale dalle sigarette elettroniche senza e con nicotina, saremo ben lieti di poterli comunicare a tutta la cittadinanza. Grazie dottor Boffi per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie altrettanto. Dottor Burdo. Sì. Ci siamo? Certo, il fumo, microcircolo sicuramente, ma io aggiungerei anche l'inquinamento, quindi l'effetto che provoca su queste tube di cui abbiamo parlato in quest'ora di collegamento. Mm-hmm. Chi fuma più facilmente ha le tube chiuse, gli vengono le sinusiti, insomma una serie di malanni legati all'inquinamento del fumo, oltre che ai danni da sordità per mancata irrorazione del microcircolo, quindi è da ricordarsi anche questo. Chi fuma può avere una sensazione di orecchio chiuso contemporaneo a una sinusite perché ha questo catarro prodotto appunto dall'inquinamento. Abbiamo forse tempo per sentire ancora Saverio che ci chiama da Roma. Buongiorno Saverio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Andiamo? Sì. Sì, no, io volevo chiedere dottore questa cosa. Dunque, a me mi capita col cambio della stagione, quindi all'inizio diciamo dell'estate e all'inizio dell'inverno, l'orecchio sinistro mi si ottura con una grande produzione di cerume, che tra l'altro ha un colore molto scuro rispetto al normale, a quello che è durante il resto dell'anno. Provo con vari prodotti, con gli oli, cerume primaverile e autunnale, quindi c'è nel cambio in estate e in inverno c'è questo cerume e cambia colore. Dottor Burdon, abbiamo un minutino, così parliamo anche. Ricordiamoci che il cerume è l'equivalente del sudore, quindi ci sono delle persone che sudano di più, altre che sudano di meno, così ci sono persone che producono più o meno cerume. Il paziente, il signore che ha parlato in questo momento, penso che rientra tra questi. Il cambio del colore, sinceramente, non ho esperienza su questo evento. Questo le sfugge, ma ci può invece dire, così rispondiamo ai tanti ascoltatori che mi chiedono, ma i coni di cera servono o non servono per togliere i tappi? Ci sono dei rischi? Perché gli otorini sono contrari? Punto interrogativo. Sono contrari perché se intanto... 30 secondi. L'orecchio chiuso non è sempre legato a un tappo di cerume, questo è il primo motivo, quindi serve sempre una diagnosi. Il secondo, la cera può colare e allora sono dolori atroci nel condotto uditivo. E poi voi dovete lavorare ancora. Teniamo famiglia, come si dice. Grazie dottor Burdo per essere stato con noi. Buonissima giornata. Roberto Scaltritti in regia, alla parte tecnica. Laura Vanossi in redazione. Noi torniamo domani. Potete scriverci e rimanere in contatto con noi anche attraverso la nostra pagina Facebook. Buonissima giornata, a domani. Essere e benessere.